Raduno indiano. Alla fine l'inverno passò, il rumore del vento diventò più tenue e non faceva più così freddo. Un giorno papà disse di aver visto uno stormo di oche selvatiche volare verso nord. Era ora di portare le sue pellicce a Independence. Mamma disse: "Oh, gli indiani sono così vicini." "Sono assolutamente amichevoli," disse papà. "Li incontrava spesso nel bosco quando andava a caccia, non c'era niente da temere a proposito degli indiani." "No," disse mamma. Ma Laura sapeva che mamma aveva paura degli indiani. "Sì, devi andare, Charles," disse. "Abbiamo bisogno di un aratro e di semi e poi tornerai presto." Il giorno dopo, prima dell'alba, papà attaccò Pet e Patty al carro, caricò le pellicce e partì. Laura e Mary contavano i giorni, lunghi e vuoti, uno, due, tre, quattro, e papà non era ancora tornato a casa. Il mattino del quinto giorno incominciarono ad aspettarlo sul serio. Era una giornata di sole, il vento era ancora fresco ma profumava di primavera. Nell'immenso cielo blu riecheggiava il grido delle anatre e il qua qua qua delle oche selvatiche che in lunghe file di puntini neri nel cielo volavano verso nord. Laura e Mary giocavano fuori, il tempo era gradevole. Il povero Jack le guardava e piangeva, non poteva più correre né giocare perché era legato. Laura e Mary cercavano di confortarlo, ma lui non voleva coccole, voleva essere libero, come era sempre stato. Papà non arrivò quella mattina e nemmeno nel pomeriggio. Mamma disse che probabilmente c'era voluto parecchio tempo per smerciare le pellicce. Nel pomeriggio Laura e Mary stavano giocando a campana, avevano tracciato le linee con un bastoncino nella terra umida. Mary non aveva molta voglia di saltare, aveva quasi 8 anni e pensava che quel gioco non si addicesse a una signorina, ma Laura aveva insistito, dicendole che restando fuori avrebbero visto papà non appena fosse arrivato dal sentiero del ruscello. Così Mary si era messa a saltare. All'improvviso si era fermata, in equilibrio su un piede solo, e aveva detto: "Cos'è?" Laura aveva già sentito quello strano suono, disse: "Sono gli indiani." Mary rimise giù l'altro piede e restò immobile, spaventata. Laura non era davvero spaventata, ma quel suono le procurava una strana sensazione. Era il suono delle voci di molti indiani. Somigliava al rumore di una serie di colpi d'ascia e all'abbaiare di un cane. Sembrava una canzone, ma non somigliava a nessuna canzone che Laura avesse mai sentito. Era un suono selvaggio, ma non minaccioso. Laura cercò di capire meglio. Non riusciva a sentirlo molto bene perché c'erano in mezzo le colline e il vento e perché Jack ringhiava furiosamente. Mamma uscì e rimase in ascolto per un minuto. Poi disse a Mary e Laura di entrare in casa. Mise dentro anche Jack e tirò il cordino del chiavistello. Non giocavano più, guardavano dalla finestra e ascoltavano quel suono, che sembrava più duro da dentro casa. A volte non lo sentivano, poi lo sentivano di nuovo, non si era fermato. Mamma e Laura sbrigarono le faccende prima del solito, chiusero Bunny, la mucca e il vitello nella stalla e portarono il latte in casa. Mamma lo preparò e lo mise via. Prese un secchio d'acqua fresca dal pozzo, mentre Laura e Mary portavano dentro la legna, intanto quel suono continuava. Ora era più forte, più veloce, faceva battere forte il cuore di Laura. Entrarono tutte in casa e mamma sbarrò la porta. Il cordino del chiavistello era già dentro, non sarebbero uscite di casa fino al mattino successivo. Il sole scendeva lentamente. Tutto intorno al limite della prateria il bordo del cielo splendeva di rosa. La luce del fuoco tremolava nella casa buia e mamma preparava la cena. Ma Laura e Mary guardavano in silenzio fuori dalla finestra. Videro i colori sbiadire tutto intorno. La terra era ombrosa e il cielo pallido. Per tutto il tempo quel suono continuò a salire dal ruscello, sempre più forte, sempre più veloce. Il cuore di Laura batteva sempre più forte, sempre più veloce. Quanto urlò quando vide il carro! Corse alla porta saltando di gioia, ma non riuscì ad aprirla. Mamma non la lasciò uscire, uscì lei per aiutare papà a portare dentro i pacchi. Lui entrò con le braccia piene. Laura e Mary gli si aggrapparono alle maniche e gli salirono sui piedi. Papà scoppiò nella sua allegra risata. "Ehi, ehi, lasciatemi andare!" rise. "Per cosa mi avete preso? Per un albero su cui arrampicarvi?" Posò i pacchi sul tavolo, abbracciò Laura stringendola tra le braccia, poi la scosse e la strinse con un braccio solo mentre con l'altro abbracciava forte Mary. "Ascolta, pa," disse Laura. Ascolta gli indiani, perché fanno questo strano rumore? Oh, stanno facendo una specie di raduno, disse papà. Li ho sentiti mentre attraversavo il torrente. Poi andò a sganciare i cavalli e a prendere gli altri pacchi. Aveva l'aratro! Lo aveva messo nella stalla, ma per sicurezza aveva portato in casa tutti i semi. Aveva dello zucchero, niente zucchero bianco questa volta, solo grezzo. Lo zucchero bianco costava troppo. Mamma aveva portato un po' di farina bianca e poi farina di mais, sale, caffè, tutti i semi di cui avevano bisogno. Papà aveva preso addirittura delle patate da semina. Laura avrebbe voluto mangiarle, ma bisognava tenerle da parte per piantarle. Poi, raggiante, papà aprì un sacchettino di carta, era pieno di gallette, le mise sulla tavola. Poi scartò un barattolo di vetro con dentro dei cetriolini sott'aceto. Ho pensato che ci meritavamo qualcosa di speciale, disse. Laura aveva l'acquolina in bocca e mamma guardava papà teneramente. Si era ricordato che lei adorava i sottaceti. E non era tutto. Diede a mamma un pacchetto e la guardò mentre lo scartava. C'era abbastanza calicò da farsi un bel vestito. Oh, Charles, non avresti dovuto, è troppo, disse. Ma il suo volto e quello di papà erano raggianti di gioia. Poi appese al gancio il berretto e il cappotto a quadri, guardava Laura e Mary di sottecchi senza fare altro, si sedette e allungò le gambe verso il fuoco. Anche Mary si sedette con le mani in grembo, ma Laura salì sul ginocchio di papà e lo colpì coi pugni. Dov'è? Dov'è il mio regalo? Disse colpendolo. Papà scoppiò in una sonora risata, come un suono di campane, e disse: vediamo, mi sembra che ci sia qualcosa nella tasca della mia camicia. Tirò fuori un pacchetto dalla forma strana e molto, molto lentamente lo aprì. Prima tu, Mary, disse, perché sei così paziente. E diede a Mary un cerchietto per i capelli. E adesso, piccola peste, questo è per te, disse a Laura. I cerchietti erano esattamente identici. Erano fatti di elastico nero incurvati in modo da adattarsi alla testa di una bambina. Sopra il cerchietto c'era un pezzo piatto di gomma nera con delle fessure e al centro del cerchietto c'era un foro a forma di stella a cinque punte. Un nastro dai colori brillanti era teso sotto, il colore si vedeva attraverso la stella. Il nastro del cerchietto di Mary era blu, quello di Laura rosso. Mamma tirò loro indietro i capelli e ci mise sopra i cerchietti e lì, tra i capelli dorati, sopra il centro della fronte di Mary c'era una stellina blu. E nei capelli castani di Laura, sopra il centro della fronte, c'era una stellina rossa. Laura guardava la stella di Mary, Mary guardava quella di Laura ed entrambe ridevano felici. Mamma disse: Ma Charles, non hai preso niente per te? Oh, mi sono comprato un aratro, disse papà. Tra poco comincerà a fare caldo, io potrò arare. Quella fu la cena più felice da tanto tempo. Papà era di nuovo a casa, al sicuro. Il lardo fritto era proprio buono, dopo tanti mesi trascorsi a mangiare anatre, oche, tacchini e carne di cervo. E non c'era niente di buono quanto quelle gallette con i cetriolini verdi amari. Papà disse loro dei semi. Aveva preso semi di rapa, di carota, di cipolla e di cavolo. Aveva preso piselli e fagioli e mais, grano, tabacco e patate. E semi di anguria. Ti dico, Caroline, quando cominceremo a raccogliere i frutti di questa terra così ricca, vivremo come re. Avevano quasi dimenticato il rumore del campo indiano. Le persiane erano chiuse ora. Il vento gemeva nel camino e tutto intorno alla casa. Erano così abituati al rumore del vento che non lo sentivano più. Ma quando si fermava un istante, Laura sentiva di nuovo quel suono selvaggio, acuto e dal ritmo veloce che proveniva dagli accampamenti indiani. Allora papà disse a mamma qualcosa che fece rimanere Laura immobile e in ascolto. Disse che il governo avrebbe mandato via i coloni bianchi dal territorio degli indiani. Disse che gli indiani si erano lamentati e che avevano ricevuto una risposta da Washington. Oh, Charles, no, disse mamma, con tutto quello che abbiamo fatto. Papà disse che non ci credeva. Hanno sempre lasciato che i coloni tenessero le terre. Manderanno di nuovo via gli indiani. Non è forse stato da Washington che ho saputo che questa zona sarà presto aperta alla colonizzazione? Vorrei smettessero di parlarne e lo facessero, disse il mamma. Dopo essere andata a letto, Laura rimase sveglia per un po' e anche Mary. Papà e mamma sedevano a leggere alla luce del fuoco e delle candele. Papà aveva comprato un giornale del Kansas e lo leggeva a mamma. Provava che aveva ragione lui. Il governo non avrebbe fatto nulla ai coloni bianchi. Non appena il vento calava, Laura sentiva in lontananza il rumore di quel raduno di selvaggi nel campo indiano. A volte quelle urla di giubilo coprivano addirittura l'ululato del vento, più veloce, più veloce, più veloce, le facevano battere il cuore. Fuoco nella prateria. La primavera era arrivata. Il sole era caldo e profumato e tutto là fuori era grande, luminoso e dolce. Enormi nuvole splendenti galleggiavano nel cielo limpido, le loro ombre attraversavano la prateria sottili e scure, e tutto il resto aveva il colore pallido e tenue dell'erba secca. Papà stava dissodando il terreno con pette e patti attaccati all'aratro da scasso. Era un ammasso spesso e duro di radici di erba. Pette e patti tiravano lentamente con tutte le loro forze e il vomero appuntito rivoltava lentamente lunghe zolle di terra. L'erba secca era così alta e spessa che teneva insieme la terra. Dove papà aveva arato non c'era un campo. Le lunghe strisce di radici d'erba erano disposte sopra l'erba che spuntava fuori tra una radice e l'altra. Ma papà, Pet e Patti continuavano a lavorare. Papà diceva che le patate e il mais sarebbero cresciuti quest'anno e il prossimo. Le radici e l'erba secca sarebbero marcite. Nel giro di 2 o 3 anni avrebbero avuto campi ben arati. A papà piaceva quella terra perché era ricca, senza alberi, tronchi o pietre. Adesso erano tanti gli indiani che passavano lungo il sentiero. Erano ovunque. Quando andavano a caccia, i colpi delle loro armi da fuoco riecheggiavano dal ruscello. Nessuno sapeva quanti indiani si nascondessero nella prateria, che sembrava completamente piatta, ma non lo era. Spesso Laura vedeva spuntare un indiano dove un attimo prima non c'era nessuno. Gli indiani venivano spesso a casa. Alcuni erano amichevoli, altri erano scontrosi e burberi. Tutti volevano cibo e tabacco e mamma dava loro ciò che volevano. Aveva paura di rifiutare. Quando un indiano indicava qualcosa e grugniva, mamma gliela dava, ma la maggior parte del cibo era nascosto e chiuso a chiave. Jack era sempre arrabbiato, persino con Laura. Non era mai libero dalla catena. Stava sdraiato tutto il tempo e odiava gli indiani. Laura e Mary si erano ormai abituate a vederli. Non si sorprendevano più, ma si sentivano sempre più al sicuro vicino a papà o a Jack. Un giorno stavano aiutando mamma a preparare la cena. La piccola Carrie giocava sul pavimento alla luce del sole e improvvisamente la luce se ne andò. Credo che arriverà un temporale, disse mamma guardando fuori dalla finestra. Anche Laura guardò. Grosse nubi nere si levavano a sud coprendo il sole. Pet e Patty arrivarono correndo dai campi con papà che avanzava a grandi passi, aggrappato al pesante aratro. Fuoco! Nella prateria! Urlò. Riempite la tinozza d'acqua, metteteci dentro dei sacchi, presto! Mamma corse al pozzo, Laura vi trascinò la tinozza, papà legò Petta alla casa, tolse la mucca e il vitello dal posto in cui erano legati e li chiuse nella stalla. Prese Bunny e la legò saldamente all'angolo a nord della casa. Mamma tirava sui secchi d'acqua più veloce che poteva. Laura corse a prendere i sacchi che papà aveva gettato fuori dalla stalla. Papà stava arando, urlando a Petta e Patti perché si sbrigassero. Il cielo ora era nero e faceva buio, come se il sole fosse tramontato. Con l'aratro papà scavò un lungo solco a ovest e a sud della casa. Poi, sul lato est, i conigli saltavano alle sue spalle come se non ci fosse. Pet e Patty arrivarono al galoppo con l'aratro e papà che sobbalzavano dietro di loro. Papà li legò all'altro angolo, a nord della casa. La tinozza era piena. Laura aiutò mamma a spingere i sacchi nell'acqua per inzupparli. Ho potuto fare solo un solco, non c'è tempo, disse papà. Presto, Carola, in quel fuoco avanza più in fretta di un cavallo al galoppo. Un grosso coniglio saltò sulla tinozza proprio mentre papà e mamma la stavano sollevando. Mamma disse a Laura di stare in casa. Papà e mamma corsero barcollanti verso il solco con la tinozza. Laura rimase vicino alla casa, vedeva arrivare quel fuoco rosso sotto le nuvole di fumo. Altri conigli passavano, saltando. Non facevano caso a Jack e lui non si curava di loro. Fissava la parte inferiore, rossa, del fumo che avanzava, rotolando e piangeva e gemeva, coccolandosi vicino a Laura. Il vento si stava alzando e urlava selvaggiamente. Migliaia di uccelli volavano davanti al fuoco, migliaia di conigli correvano. Papà camminava lungo il solco, appiccando il fuoco all'erba oltre il solco. Mamma lo seguiva con un sacco bagnato che sbatteva sulle fiamme che tentavano di attraversare il solco. Tutta la prateria era percorsa da conigli saltellanti. I serpenti attraversavano il cortile, strisciando tortuosamente. I tacchini correvano in silenzio con il collo teso e le ali aperte. Gli uccelli urlavano nel vento che ululava. Il piccolo fuoco di papà era tutto intorno alla casa ora e lui aiutava mamma a combatterlo con i sacchi bagnati. Il fuoco divampava ferocemente, infiammando l'erba secca dentro al solco. Papà e mamma lo picchiavano con i sacchi e quando attraversava il solco lo pestavano con i piedi. Correvano avanti e indietro in mezzo al fumo, combattendo quel fuoco. Il fuoco della prateria ruggiva ora, ruggiva ancora più forte nel vento urlante. Enormi fiamme si avvicinavano, ardendo, ruggendo e contorcendosi. Lingue di fuoco si staccarono e, trasportate dal vento, divamparono nell'erba molto più avanti del muro di fuoco ruggente. Una luce rossa uscì dalle nuvole di fumo nero che ribollivano in alto. Mary e Laura stavano appoggiate contro la casa, si stringevano la mano e tremavano. La piccola Carrie era in casa. Laura avrebbe voluto fare qualcosa, ma la sua mente era confusa e ruggiva come il fuoco. Poi si scosse e le lacrime cominciarono a uscirle dagli occhi irritati. Gli occhi, il naso e la gola le bruciavano per via del fumo. Jack guaiva. Bunny, Pete e Patty strattonavano la corda e urlavano di terrore. Le terribili fiamme gialle e arancioni arrivavano più veloci di un cavallo al galoppo e la loro luce tremolante danzava tutto intorno. Il piccolo fuoco di papà aveva formato una striscia nera, bruciata. Il piccolo fuoco si era allontanato piano piano contro il vento, fino a incontrare il grande fuoco che correva furiosamente. All'improvviso, il grande fuoco aveva inghiottito quello piccolo. Il vento si alzò in un grido acuto, frettoloso e crepitante, e le fiamme si innalzarono nell'aria scricchiolante. Il fuoco era tutto intorno alla casa. E poi passò. Il fuoco passò, ruggendo, e se ne andò. Papà e mamma stavano tamponando i piccoli focolai qua e là nel cortile. Quando furono tutti spenti, mamma entrò in casa per lavarsi le mani e la faccia. Era tutta striata di fumo e di sudore e tremava. Disse che non c'era più nulla di cui preoccuparsi. Il controfuoco ci ha salvati, disse, e tutto è bene quel che finisce bene. L'aria odorava di terra bruciata e fino all'orizzonte la prateria era bruciata, spoglia e nera. Strisce di fumo si alzavano da terra. Il vento trasportava la cenere, tutto sembrava diverso e triste. Eppure papà e mamma erano allegri perché il fuoco se n'era andato e non aveva causato danni. Papà disse che c'era mancato poco, ma l'avevano comunque scampata. Chiese a mamma: se fosse successo mentre ero a Independence, come avreste fatto? Saremmo andate a ruscello con gli uccelli e i conigli, naturalmente, disse mamma. Tutte le creature selvatiche della prateria sapevano cosa fare. Correvano, volavano, saltavano e strisciavano più veloce che potevano verso l'acqua che li avrebbe protetti dalle fiamme. Solo i piccoli gopher, morbidi e striati, si erano infilati nelle loro tane ed erano ora i primi a venir fuori e guardarsi intorno nella prateria nuda e fumante. Poi dal ruscello gli uccelli si alzarono in volo e un coniglio cautamente arrivò saltellando e si fermò a guardare. Ci volle parecchio tempo prima che i serpenti tornassero dal ruscello e che arrivassero di nuovo i tacchini. Il fuoco si era spento tra le cime del promontorio e non era mai arrivato al ruscello né al campo indiano. Quella sera il signor Edwards e il signor Scott vennero a trovare papà. Erano preoccupati, pensavano che forse gli indiani avevano appiccato il fuoco apposta per bruciare i coloni bianchi. Papà non ci credeva, disse che gli indiani avevano sempre bruciato la prateria per far crescere più in fretta l'erba nuova e per potersi spostare più agevolmente. I loro pony non potevano galoppare nell'erba alta, fitta e secca. Ora il suolo era ripulito e lui ne era felice perché l'aratura sarebbe stata molto più facile. Mentre parlavano, sentivano il suono dei tamburi e le urla provenienti dagli accampamenti indiani. Laura sedeva immobile sul gradino dell'ingresso. Ascoltava i loro discorsi, ascoltava gli indiani. Le stelle penzolavano basse e grandi e scintillavano sopra la prateria bruciata, mentre il vento le soffiava dolcemente tra i capelli. Il signor Edwards disse che c'erano troppi indiani in quei campi e questo non gli piaceva. Il signor Scott aggiunse che non capiva perché così tanti selvaggi si stessero riunendo, se non per qualche diavoleria. L'unico indiano buono è l'indiano morto, disse il signor Scott. Papà disse che non lo sapeva, supponeva che gli indiani sarebbero stati pacifici come chiunque altro se li avessero lasciati in pace. D'altra parte, erano stati spinti a ovest così tante volte che era comprensibile che odiassero i bianchi. Ma un indiano doveva avere abbastanza buonsenso da capire quando non c'era più niente da fare. Con i soldati a Fort Gibson e a Fort Dodge, papà non credeva che questi indiani rappresentassero un pericolo. E sul motivo per cui si riuniscono in questi campi, Scott, ti posso dire questo, aggiunse, si stanno preparando per la grande caccia al bufalo che fanno in primavera. Disse che c'erano una mezza dozzina di tribù in quegli accampamenti. Di solito le tribù si scontravano tra loro, ma in primavera facevano la pace e si riunivano tutte per la grande caccia. Si giurano pace tra di loro, disse, e pensano a dare la caccia ai bufali. Quindi non credo che se la prenderanno con noi. Faranno i loro discorsi e le loro feste. E poi un giorno partiranno all'inseguimento delle mandrie di bufali. I bufali andranno presto a nord in cerca di erba fresca. Accidenti, piacerebbe anche a me partecipare a una caccia del genere, deve essere una cosa spettacolare. Beh, magari hai ragione, Ingalls, disse lentamente il signor Scott. In ogni caso sarò felice di raccontare quel che hai detto a mia moglie. Non riesce a togliersi dalla testa il massacro del Minnesota.